giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Le autorità di polizia giudiziaria e i servizi di sicurezza italiani ricercano oggi 163 latitanti del terrorismo di sinistra. Quelli condannati in via definitiva per omicidi e ferimenti sono 46. Gli altri 117 restano tutti accusati dai tribunali di aver partecipato ad un'associazione sovversiva, ad una banda armata. La maggioranza di loro risiede in Francia, numerosi però sono sparsi tra Nicaragua, Argentina, Cuba, Libia, Angola, Algeria, Centroafrica e nelle isole sperdute del Centro America. In molti ripudiano le scelte intraprese in gioventù e oggi si dichiarano almeno a parole persone diverse. In pochi, nonostante la sconfitta, mantengono però intatti e mutati idee e comportamenti del passato, irriducibili, quasi mai pentiti. Macchine, treni, navi, aerei, a piedi lungo i sentieri di montagna, tra vecchi cascinari sparsi nei boschi e frontiere che dividono nazioni, i latitanti della lotta armata di sinistra compiono viaggi per raggiungere mete lontane. Le stesse vie di fuga scelte nel passato dal ricercato numero uno, Alessio Casimiri, nelle BR Nome di Battaglia, Camillo. Anni 70. Alessio Casimiri è un giovane militante nel servizio d'ordine del collettivo Via dei Volsci, gruppo di autonomia operaia di Roma. Gestisce un'armeria. Entra come irregolare nella colonna romana delle Brigate Rosse. Il 16 marzo 1978 in Via Fani partecipa al sequestro di Aldo Moro e all'uccisione dei 5 uomini della scorta. Con Alvaro Loiacono, Alessio Casimiri è a bordo della Fiat 128 bianca, che si pone dietro la vettura della scorta di Moro e impedisce ogni via di fuga. Il suo ruolo è di copertura e di logistica, raccoglie poi le armi utilizzate per la strage. Da quel momento Casimiri è un latitante, ma nessuno formalmente lo cerca. Fa parte dei gruppi che uccidono il magistrato di Cassazione in servizio al Ministero di Grazia e Giustizia, Riccardo Palma, Roma, 14 febbraio 1978. Il direttore dell'ufficio prevenzione pena, Girolamo Tartaglione, Roma, 10 ottobre 1978. Il colonnello dei carabinieri, Antonio Varisco, Roma, 13 luglio 1979. Gli stessi gruppi assaltano la sede della DC di Piazza Nicosia, colpendo a morte gli agenti Antonio Mea e Pietro Ollano, Roma, 3 maggio 1979. Ma perché Nicaragua non concede l'estradizione di Casimiri nonostante le numerose richieste dello Stato italiano? Lo svela il giallo nero il giornalista e scrittore Gianni Cipriani. Il problema dell'estradizione di Casimiri è un problema delicato, nel senso che inizialmente non c'era un accordo preciso tra Italia e Nicaragua, e quindi c'era anche una situazione in cui Casimiri poteva rimanere tranquillamente all'estero senza correre troppi rischi. Con la fine del regime dei sandinisti la vicenda Casimiri è ritornata in primo piano e anche in Nicaragua ci sono state delle campagne di stampa contro di lui e c'è stato il rischio che venisse in qualche modo restituito alla giustizia italiana che lo reclamava. Da questa situazione è nata una vicenda abbastanza curiosa, o se vogliamo tipica nel mondo dell'intelligence, perché ci fu una missione di due funzionari del SISDE che andò da Casimiri per cercare in via informale di ottenere alcune informazioni. Siamo in una fase investigativa nella quale ancora si cercava di identificare il quarto uomo, che poi era Germano Maccari. Casimiri raccontò una serie di vicende, fece il nome di un possibile quarto uomo, ma che poi non era la persona adatta, e fece il nome di Raimondo Etro, una persona che era rimasta fuori dalle indagini, come di un fiancheggiatore del caso Moro. Quella sorta di confessione, quella sorta di accordo sottobanco, che poi divenne pubblico successivamente, probabilmente hanno costituito una sorta di cambiale in base alla quale poi non si è insistito più di tanto sulla estradizione di Casimiri. Dal Nicaragua alla Francia, per le strade di Parigi camminano liberi volti noti e meno conosciuti degli anni di piombo, ricercati dallo Stato italiano. Oltre ad Oreste Scalzone ci sono Giovanni Alimonti, Enrico Bidimburgo, Enzio Calvitti, Roberta Cappelli, Maurizio Di Marzio, Carla Vendetti della colonna romana delle Biere, PCC, Simonetta Giorgeri, Gino Giunti e Guido Minon della colonna toscana delle Biere. Vincenzo Spanode, i comunisti organizzati per la liberazione proletaria, e Massimo Canfora, Walter Greppi e Rossella Moneta di Autonomia Operaria. All'ombra della Torre Eiffel si muovono ancora oggi Marina Petrella delle BR Partito Guerriglia, Giovanni Veglia Casa, Francesco Nuzzolo, Luigi Bergamin di Prima Linea, Andrea Morelli dei Comitati Comunisti Rivoluzionari. 163 nomi e cognomi come quello di Cesare Battisti del PAC, proletari armati per il comunismo, l'uomo che lo Stato italiano richiede da anni. Per favorire la sua estradizione viene arrestato il 10 febbraio 2004 dagli agenti della Direzione Nazionale Antiterrorismo, poi scarcerato il 3 marzo 2004 dalla Chambre d'Instruction della Corte d'Appello francese, che ravvisa nella richiesta delle autorità giudiziarie italiane una sorta di persecuzione politica. Cesare Battisti non è clandestino, ma quello che lui stesso definisce latitante ufficiale, cioè per anni conosciuto e tollerato dai governi francesi, si porta il fardello di due condanne definitive all'ergastolo, è ritenuto responsabile degli omicidi del gioielliere Pierluigi Torregiani, del macellaio Lino Sabbadin, dell'agente della Digos Andrea Campagna, del maresciallo degli agenti di custodia Antonio Santoro. Cesare Battisti si ritiene innocente, ma per molti è invece un assassino. Nessun perdono può esserci per Cesare Battisti da parte dei familiari delle vittime, dice una mattina al nostro Giuseppe Cruciani Alessandro, il figlio di Antonio Santoro. Ricordo gli spari, però poi questo è uno scadere poi nel colore. Io ricordo la desolazione, scriva questo, che io mi ricordo a distanza di anni la profonda desolazione, che la paura, l'orrore per queste cose qui. Per quello che, a cui ho assistito, alla fine era questa la cosa, cioè, credo che questa sia la cosa importante da dire, no? Non molto di più. Lei ha visto uccidere suo padre nel 1978, come ha trascorso questi lunghissimi anni, cosa hanno rappresentato per lei? Io ho cercato fin da subito, un po' per le condizioni stesse, un po' ci siamo allontanati di dei luoghi, ma cioè, in qualche modo, benché fosse impossibile, ho cercato di allontanare da me questo fatto. Un po' tutt'oggi non riesco ad avvicinarmi oltre una certa soglia, nel senso che per me quell'evento lì è un evento in cui di cui non riesco a farmi un'idea, appunto, non è una cicatrice che non riesco a esplorare. E in questi anni questa cosa non credo né in questi anni, ma neanche per i prossimi anni, che sia possibile da conciliare nella mia vita. È una specie di seconda nascita, insomma, un evento che ha cancellato gli anni precedenti, l'infanzia, e poi ha proiettato in un'altra cosa. E quindi la cosa importante è che per me da allora il valore della vita è diventato, se possibile, più intenso, più profondo. Ecco. Alessandro Santoro, chi è per lei Cesare Battisti? Per me, un po' per tutta la mia famiglia, evoca, adesso io ho visto le ultime informazioni, lui si proclama innocente. In altre circostanze, da quello che ho visto dai suoi libri, dalle pubblicazioni, dal film che un documentarista francese vi ha girato, lui si proclama colpevole, orgoglioso di essere colpevole di quegli atti. Adesso io rimetto il giudizio a quelli che hanno, con elementi e con prove, messo il loro giudizio definitivo sul suo conto. Per me Cesare Battisti è un individuo, un essere umano, ed è un assassino. E così un po' anche per tutta la mia famiglia. Insomma, non è un niente di più che un assassino, non un terrorista, non un rivoluzionario, sicuramente non un rivoluzionario, ecco. Anzi, il contrario, paradossalmente le azioni di quegli anni sue e di altre persone come lui hanno messo in pericolo la democrazia, che invece è una cosa, l'idea di giustizia è la stessa possibilità di giustizia con gli omicidi, e hanno messo a rischio la democrazia, hanno fatto forse un gioco molto più grande delle loro illusioni. Ci fu un tempo in cui arrivarono i giorni bui, quelli del labirinto, e poi quei giorni si dileguarono e il buio scomparve per sempre. Ci fu un tempo in cui i giovani ribelli con le armi attaccarono lo Stato e colpirono a morte i loro nemici, e alla fine tornarono nel nulla, proprio da dove erano venuti. Sovversivi e poliziotti, i nemici dell'ordine costituito e i difensori delle regole, quelli che attentano le nostre proprietà, le nostre vite e quelli che ci difendono. Forse così la lotta armata di sinistra sarebbe chiusa ormai da parecchio tempo e sarebbe riduttivo spiegare un terzo di secolo di storia contemporanea. Forse oggi manca solo quel pezzo di verità che i 163 latitanti della lotta armata di sinistra ancora non intendono del tutto raccontare.